digitandoci un messaggio su bolo.vado.li, che è un pad condiviso su cui per il momento abbiamo ricevuto solo il criptico messaggio Umberto Smaila Sul. Quindi divertitevi voi a completare questa frase. C'era Riccardo Smaila, che vabbè, sarebbe un onore avere nel pad Riccardo Smaila. È Umberto Smaila che ci interessa. Rivelati, Umberto, facci delle richieste. Facciamo che la più bella compilazione vincerà un saluto in diretta da parte nostra. Quindi ricordiamo, bolo.vado.li riceverà un cornetto gratis dal gelataio. Volevamo ricordarvi che siamo in diretta su Radio Spore, la radio nata all'interno di XM24 qualche tempo fa, e volevamo ricordarvi che siamo seguiti al Festival Olé, Festival di Editoria Indipendente, che un dopo festival questo ufficialmente. Che fra l'altro la radio, diciamo la stanzetta della radio, appena terminata dopo un intero inverno passato a costruire la saletta di regia, c'è stato il bellissimo sgombero e tutto il lavoro di un inverno è andato. Come teneva la matita il gelataio durante il taglio del cartongesso, ragazzi, non è, cioè veramente è stato un insegnamento comunque. Sono ricordi bellissimi, come è bellissimo il ricordo del divano ad angolo che avevamo faticosamente caricato in macchina, portato, scaricato per le scale fino nel sotto, nell'umido scantinato di XM24. Il divano è servito negli ultimi giorni a qualcuno per dormirci probabilmente, e poi è finito nelle manacce di qualche brutta persona che si veste uguale alle sue amiche brutte persone. Infatti lanciamo un appello, ragazzi, commentate su vado.bolo.it, la domanda è: vincerà bolo.vado.li, scusa, vado a bolo, magari domani vado a bolo, a bolo.vado.it. Cosa è successo al divano della radio? Questo è interessante. Il gelataio farà anche un cornetto soft, per non solo un cornetto simple, scusate. Va bene, attacchiamo un pippone un attimo prima della musica e ritorniamo a parlare del Festival di Bologna Elettrica, della crew di Bologna Elettrica. Delle nostre intenzioni sono sempre state quelle di rompere certe dinamiche che ci sono nell'industria musicale, diciamo orientamento più capitalista. Siamo tutti personaggi che in un modo o nell'altro hanno esperienza di quel tipo di mondo, e c'erano tante cose che non ci piacevano, e quindi abbiamo cercato di creare qualcosa che assomigliasse. Attenzione, si interrompe il pippone per un messaggio sul nostro pad condiviso bolo.vado.li. Umberto Smaila Sul ACAB, a quanto pare. Diciamo, è ancora più criptico il messaggio. Dove è andato? Oh, giusto, non abbiamo diviso sul pad le diverse risposte, perché ora che diciamo la notte si inoltra e il programma si sviluppa, il pad da vuoto che era si sta riempiendo di contenuti. Quindi il divano dove è finito? ACAB. Questo è un indizio su che fine ha fatto il divano. Ma ACAB inteso come slogan o ACAB inteso come il celebre capitano che quindi magari si è arredato il vascello per andare alla ricerca di Moby Dick e rilassarsi nelle cazze sul divano? Questo è aperto appunto la storia, ragazzi, commentate su bolo.vado.li. Va bene, proseguiamo con il pippone. Dunque, dicevamo che quello che ci interessava era creare delle dinamiche differenti da quelle che avevamo vissuto, diciamo, nei nostri percorsi. Perché naturalmente anche nel mondo della musica, nonostante sia un mondo di artisti, nel mondo della musica commerciale, diciamo commerciabile, intesa come industria, ci sono dei problemi che si rispecchiano poi anche nell'organizzazione di eventi come il nostro. Quindi è sempre una battaglia a cercare di togliersi di dosso certe dinamiche. Un esempio che abbiamo nominato prima è quello della disparità tra banalmente artisti donne e artisti uomini, cosa che è evidente abbastanza come in tutti gli altri ambiti della nostra bellissima società eteropatriarcale. Un'altra delle cose belle che si sono create con Bologna Elettrica è stato appunto, come parlava, diceva il... mi sono dimenticato il tuo grado, ammiraglio o... Il Nostromo, che è stato ospite come artista alla prima edizione del festival e poi è, piano piano si è integrato, anzi veloce veloce si è integrato nel gruppo di organizzatori che l'ho accolto molto calorosamente, perché un'altra delle cose che ci interessa è coinvolgere gli artisti direttamente nella creazione degli eventi, cosa che in tante altre situazioni è abbastanza dissociata. Nel frattempo il pad sta esplodendo di risposte, c'è un link a Google, visitiamolo. Questo è il secondo link, è un reindirizzamento. Divano in pelle di Caribou Blue Notte has already been sold. Lo sappiamo bene, difatti manco su internet si trova più, cioè quel divano era unico, era blu e era in pelle di Caribou. Ovviamente Caribou Android, stile quelli. Caribou l'artista, se la... Dopo l'ennesimo disco fake di Caribou hanno deciso di farci un divano. Infatti il valore secondo me era un po' di più di 700 euro, anche perché oltre che tanta gente, anche appunto il gelataio si è seduto sopra a questo bellissimo divano di Caribou artista. Va bene, gelataio, ci vuoi anche introdurre, intanto che ci citi la tua esperienza col divano di Caribou, ci introduci il prossimo pezzo così smettiamo di rompere i coglioni. Sì ragazzi, io non vorrei più parlare di questo divano, ma introdurre la prossima traccia di Jacopo Bacci, che è stato uno dei anche lui è entrato, mi pare, il secondo o terzo anno dentro al collettivo e si è fatto, devo dire che l'ultimo anno è stato veramente diligente, ha smontato e rimontato l'intero impianto da solo, con un apparato molto pesante, veramente molto prestante, ma un bel fisico Jacopo. E adesso lo rimpiangiamo perché è andato a vivere a Bruxelles. Speriamo che queste menti che l'estero ci ruba poi possano tornare in patria bolognese. Sì, sono sovranista, ve lo devo ammettere. Ok, Jacopo Bacci, la traccia è Zenilan, fra l'altro fa parte di un album molto bello che vi consiglio di recuperare. Secondo me è il suo miglior album di Jacopo. Thank you. Wow, mi sentite? Sì, sulle mani per Bologna Elettrica, che è partita un'altra traccia, quindi lasciamo andare la cassa. La taglio, la lascio andare. Ah, non la lascio andare, molto bene. Allora, nel frattempo sono arrivate altre interessanti frasi sul pad, tipo c'è qualcuno che allude alla vendita del famoso divano di cui non parleremo più in questa notte, ma chiudiamo così il cerchio, che c'è chi insinua, potrebbe anche molto essere, che tipo è stato venuto a Lepore, tipo un po' la... è un po' tipo la poltrona di pelle umana di Fantozzi, Lepore si tiene la pelle, il divano di pelle di Caribou come trofeo della sua politica. E no, Gelataio vuol dire qualcosa? Immagino già Lepore che si guarda le partite di basket sulla nostra poltrona e dire: vedete figli, questo è il nostro trofeo dei centri sociali che abbiamo smantellato in tutta Bologna. Esatto, perché secondo me Lepore, a differenza vostra che ci state ascoltando, l'unico dopo festival che si può ascoltare è quello di Sanremo. E poi ci sono altre interessanti appunto frasi, tipo: Nostromo sei bellissimo. Grazie ragazzi, e ya, sei bellissimo con l'asterisco, vabbè, in quanto... no, vabbè, sei bellissima, grazie ragazzi. Comunque, Jacopo Bazzi, spogliati, grazie ragazzi, lo farò. E abbiamo qua con noi una guest really, really, really deep dall'isola. Quindi chiamiamo ai mix di situazionismi elettrici. Ma se lo dica, dai. Chiamiamo Clementina, che ha una bella domandona per tutta la crew e la ciurma. Ciao ragazzi. No, allora, mentre prima Taba parlava della questione, non sono molto abituata a parlare al microfono. Ok, così, ok. E mentre Taba parlava della questione, vicinissimo, ok. E più vicino, devo toccarlo. E questo è non è anti-Covid questa cosa, però. Ok. E niente, del fatto che nel collettivo di Bologna Elettrica nessuno dei partecipanti potesse suonare, e questa cosa mi è un po' risuonata nella mente nell'ultima mezz'oretta, e volevo capire un po' qual era stata la genesi di questa decisione, perché come diceva, chiaramente i musicisti vogliono suonare, quindi mi chiedevo il perché, di sapere un po' meglio qual era la motivazione. Chi vuole rispondere? Allora, ci riprovo. No, allora, prima di tutto, per evitare, come poteva succedere, che ognuno iniziasse a dire: ah, ma voglio suonare io qui, voglio suonare là, ed evitare subito sul nascere queste discussioni noiose nel collettivo, e poi anche per dimostrare al chi da fuori vedeva il festival che non pensasse che fosse il solito festival fatto da una crew per se stessa, ma che la vedesse più come una cosa per la collettività, anche quindi diminuire sempre un modo di fare individualista che spesso si nota nei musicisti, si può dire. Tutto qui, direi questa volta ti è un po' più... Mi avete soddisfatto, ok, ho capito. Scusate, era una curiosità... È una curiosità molto, molto lecita, anche perché è sicuramente una dinamica molto interessante, una cosa che io entrai appunto... Dica. No, anche perché era una cosa che proprio non sapevo di Bologna Elettrica, quindi, pur avendolo frequentato sempre, no? Quindi... E ora lo sa, come lo sanno tutti i cyberascoltatori. Una mano vuole il microfono, glielo lascia. Venghi, venghi. Sì, precisiamo che ovviamente se i musicisti è naturale che abbiano voglia di suonare, perché sennò avrebbero fatto i falegnami ma un'altra dinamica che diciamo un po' tossica, che si crea spesso anche negli ambienti cosiddetti underground della musica, che i collettivi, i gruppi di persone organizzino situazioni, diciamo, per promuovere se stessi, e poi si finisca in una spirale mortale per cui suonano chi organizza suona per farsi sentire dai suoi amici, e alla fine, diciamo, la ricerca artistica si perde un po'. E allora abbiamo cercato con questo escamotage di contenere i nostri ego sfrenati e per un piccolo momento e provare a fare ricerca, appunto. Giusto? Correggetemi se sbaglio. Giustissimo, l'hai detto molto meglio di me. Partiamo con un'altra canzone di Carlo Maria. Fra l'altro questa canzone qui ricordo proprio quando la fece live all'ultima edizione di Bologna Elettrica, nella chiamata come si chiamava lo spazio di sotto, l'osteria. Già la memoria pecca. Tra l'altro Carlo Maria adesso abita a Milano, però fece il Conservatorio Bologna. Tra l'altro ha fatto anche un bellissimo progetto, un album molto bello che vi consiglio di recuperare con Caterina Barbieri. Ma questo fa parte di uno dei suoi EP personali. Carlo Maria, Fast Backwards. Tra l'altro mi ricordo che l'impianto fece fatica, perché è una traccia veramente piena su tutte le frequenze, e l'impianto di sotto ce la fece a stento a reggere la potenza di questa traccia. Mamma mia che festa! volevo ringraziare innanzitutto chi ha fatto i complimenti alla mia bellissima voce, e proprio per questo ho deciso di attuare un Mario Biondi vocoder. E qualcuno vuole venire a dire qualcosa al microfono? Ci sono domande in sala? E ah, scusate, sì, era appunto qui mi consigliano di leggere il pad invece di continuare a cazzeggiare col mio ego. E andiamo avanti. E niente, il pad dice appunto Nostromo, è una voce molto bella, anche se sei un uomo. Ah, ok, scusa. E niente, giustamente qualcuno ha bacchettato il gelataio per il suo pressapochismo appunto radiofonico, poca ricerca, tanta superficialità, e ci dicono: gelataio, le canzoni sono un'altra cosa, e aperte le virgolette, una canzone, grossetto, è una composizione vocale scritta per uno o più voci, per lo più con accompagnamento strumentale. I primi esempi risalirono al Medioevo e il patrimonio più antico sembrerebbe quello proveniente dall'antico Egitto, con la tradizione canzone popolare della trebbiatura. Noi dovremmo avere in archivio, se non sbaglio, un remix di Square Pusher della canzone tipo popolare della trebbiatura egiziana. Il gelataio ce l'abbiamo per caso? Lo cerca, è bellissimo quel brano. C'è una cassa che è praticamente fatta campionando i copertoni della trebbiatrice quando vanno sull'asfalto della campagna romagnola, i famosi copertoni della trebbiatrice che sono appunto della Roland. E niente, c'è qualcuno in sala qua che vuole, in cabina situazionistica, che vuole fare qualche domanda ai Regas di Bologna Elettrica? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, benissimo, si accomodi, venghi qua, venghi, a lei il mix, quindi al mix a lei come nome in codice? Cristina, venga allora Cristina al mic. Ciao a tutti, allora volevo fare una richiesta molto semplice e importante per l'opinione pubblica di questi eventi e dell'organizzazione, ed è se ci potevate parlare di un ruolo fondamentale di una parte importantissima dei festival, che è la pulizia, soprattutto che può attirare attenzione di giornali locali e testate un pochino aggressive nei confronti di questi eventi. Diteci dunque come siete organizzati per pulire il locale dopo un afflusso incredibile di persone. Ah, io, sempre io, le domande scomode sempre a me, cioè. No, io domande scomode per il gelataio. Ah niente, mica c'erano le imprese di pulizia, lì si puliva tutto fra di noi ed era un bel casino, beh. E ricordiamo benissimo l'edizione del 2018, se non erro, dove il giorno dopo la dozzina del collettivo ci paccò tutti e il gelataio... Tutti! E ci ritrovammo in due a dare lo straccio, diciamo, per 4-5 ore. Io mi ricordo che il giorno dopo ero pieno di mal di schiena. Fra l'altro, comunque, questo a screditare anche certe dicerie. Io ho parlato anche con una signora poco tempo fa, fuori dall'XM defunto, che diceva che era sporchissimo, eppure si puliva, e anzi, si puliva anche molto. Ragazzi, però io ho finito la mia risposta. Dunque, vene varicosi e avambracci giganti per questi componenti fondamentali. E ci dica Nostromo il prossimo brano. Prima del prossimo brano vorrei un attimo, c'è stata una cosa che è successa in questo momento nel pad. Abbiamo scoperto che c'è un componimento. E componimento lo dico reppando, ok, vai più o meno. Si parte da Umberto Smaila, quindi Umberto Smaila sul parrocchino di Donald Trump, balla la techno di JJ Bacci e si irradia nel cielo della Bolognina con sulle mani con il con. Wow. Oh, Cristiana Capotondi con Tondi, la notte prima degli esami 2020. Ottimo, bellissimo. Dai, direi che questo è un ottimo incipit per il prossimo brano, gelataio. Che dice? Che brano mandiamo? Tu. Quindi mandiamo un pezzo ambient dopo questo hip hop aggressivissimo ed esplosivo di Tullia Benedicta, che fece appunto un live bellissimo, ricordo, sia di sotto ma anche ricordo in sala grande, con la tromba. No, boh, anche Bologna Elettrica, vi ricordo, forse era il 2018. Primo anno, sì, quindi 2017. Era ancora, oh, esatto. Quindi, terzo ambien di Tullia Benedicta. Il titolo lo diciamo dopo. Buonasera, ciao a tutti, Tony Clapton. Questa è la prima volta che incontro i ragazzi di Bologna Elettrica e devo dire che sono molto colpito sia dalle intenzioni, poi ho avuto modo di parlare un po' con loro qui e sono veramente ragazzi in gamba, seri, e spero che tutto continui. In ogni caso avevo una domanda proprio da ignorante, da novellino. Volevo chiedere come scegliete gli artisti, se avete una, vi date una tematica per la serata, come ragionate, insomma, come funziona il dibattito? Allora, primi due anni ci arrivavano tantissime comunque richieste, poi fra la rete di musicisti e diciamo in assemblea si vagliavano tutte e per quelli che c'era più consenso si facevano suonare. Il terzo anno è stato un processo lunghissimo di mesi, ovvero c'era stata anche una call pubblica per i musicisti come una call per le performance e quindi si è fatto prima un documento lunghissimo con tutti gli streaming di tutti gli artisti, ce li siamo ascoltati tutti e poi dopo siamo ritrovati per riascoltarli tutti assieme e alla fine abbiamo evidenziato quelli che sembravano più adatti anche al festival come suono, come i buchi che c'erano, tutte le varie questioni e da lì insomma si è trovata la scaletta finale, e si è cercato di dare spazio un po' a tutti i generi dell'elettronica. Si partiva più che altro, si è sempre partito il pomeriggio con cose più, diciamo, ambient, drone, più magari anche di attenzione, quindi cercando anche una situazione in cui ci si sedeva per terra e si ascoltava. A volte la cosa non è riuscita benissimo perché c'erano degli impianti fuori che sparavano della gran techno e in certe stanze purtroppo non si riusciva a sentire benissimo, e dipendeva anche un po' come si incastravano tutte le varie scalette. Sicuro c'è stato fatto anche un lavoro magari a volte un po' raro negli spazi così liberi, ovvero quello di stare attentissimi al minutaggio di ogni artista, perché c'erano talmente tanti artisti e allungare un set voleva dire un atto quasi di prepotenza verso gli altri artisti, perché non avrebbero potuto suonare, e più o meno dai, ce l'abbiamo sempre fatta. E niente, questo è... Volete aggiungere qualcosa? No, un altro discorso, poi dopo veniamo alla domanda che ci è appena stata fatta in pad, e era il discorso che a me interessava tantissimo, il fatto della scelta dello spazio, ovvero che magari uno può dire perché un artista suonava in osteria e un artista suonava in sala grande, o no, gelataio e anche scarico merci. Cioè il fatto non era semplicemente l'artista più grosso suona in sala grande o l'artista meno grosso suona in osteria, che sarebbe stato un discorso secondo me anche molto superficiale, era invece più in base al sound. Di conseguenza ci sono persone, artisti, musicisti che hanno un sound che si presta di più a situazioni e a situazionismi che magari in una stanza come osteria più punk, sì, ma anche più appunto il situazionismo, l'amato situazionismo che ci fa tanto svarionare in alcune situazioni che magari si prestava di più all'osteria. Quindi anche il fatto che il main stage, se vogliamo chiamarlo in maniera veramente brutale e appunto superficiale, non era selezionato per l'importanza dell'artista, per fortuna. Veniamo alla domanda che ci arriva del pad, poi vediamo chi risponde. Siccome risponderà il gelataio, c'è questa sensazione. Anzi, non è il gelataio, scarico merci, ottimo. Pensate al profilo politico degli artisti anche. E se sono dei pezzi di merda? Adesso, prima di passare il microfono a scarico merci, vorrei sollecitare tutti a farci domande sul pad, così che abbiamo una bella conversation. Quindi, mic a scarico merci. Allora, rispondo in due modi, sia intanto perché questo ha a che fare con la scelta artistica anche degli artisti, diciamo che allora intanto all'ultima edizione c'erano 50, più di 50 tra artisti, performer, DJ, quindi un sacco di gente, e fin dall'inizio la scaletta l'abbiamo fatta soprattutto in base alle nostre conoscenze personali praticamente, perché nella rete di musicisti, DJ e persone che hanno a che fare con la musica ci si conosce un po' tutti, soprattutto chi si occupa di certe sonorità, e quindi così è nata in maniera collettiva, spontaneamente, senza una direzione artistica rigida, diciamo, ma è venuto naturale l'accostamento di certi artisti in base alle nostre sensibilità, che diciamo quasi per elezione forse sono tutte simili. Ovviamente questo festival è nato in uno spazio particolare, XM24, uno spazio che fa suoi principali i principi di antifascismo, antirazzismo, antisessismo e anticapitalismo, e quindi questi sono naturalmente, diciamo, gli orizzonti con i quali abbiamo sempre fatto naturalmente i conti. E infatti devo dire che non è che ci sono mai capitate situazioni di artisti problematici da questo punto di vista, perché chi veniva sapeva il contesto in cui veniva, e se non lo sapeva glielo spiegavamo bene, quindi partecipava solo se era interessato a questo genere di contesto. Sì, gli si faceva un discorsino che facesse capire la situazione, in che spazio ci si trovasse. Per fortuna non abbiamo mai avuto grossi problemi, devono essere anche in grado di adattarsi, perché comunque non c'era un'azienda dietro con dei tecnici professionisti, anche se a volte c'erano anche dei professionisti che ci hanno voluto aiutare volontariamente. E, però dai, alla fine più o meno tutto è sempre andato, qualche problema, ma insomma pensavamo anche molti di più. Mi ricordo un anno che è saltata anche la corrente nel bel mezzo della sala grande, e tutti disperati. Io ero già lì che pensavo che è finito tutto, quest'anno è andata così, l'una di notte nel top della serata, e invece in 10 minuti, non si sa come, si è riuscito a trovare un cavolo di cocktail che era caduto su una ciabatta, classico. Quando una serata si interrompe, sapete che il 99% è perché un cocktail si è rovesciato su una ciabatta. Beh, io vorrei fare appunto un ringraziamento a tutti i bombers che rovesciano i cocktail sulle ciabatte, proprio perché mettono del pepe nelle serate. Sennò sai che due maroni, due ballare, cioè andare alla cassa dritta, cioè. Invece no, ragazzi, più cocktail sulle ciabatte comunque. Che diciamo, per ringraziare i bombers mettiamo un pezzone? Sì, due stronzate per a corredo di questa roba qua. Qual era? Ah, che una delle cose positive è che sono venute persone, musicisti, DJ, artisti che magari avevano qualche sorta di pregiudizio negli spazi autogestiti o comunque non frequentavano quegli ambienti, perlomeno da artisti, e invece sulla spinta di questo genere di cosa che si è venuta a creare, sono venuti e magari hanno approfondito il rapporto con una realtà con cui non avevano troppo a che fare. È successo anche con il pubblico, naturalmente. Ma abbiamo un'indiscrezione sul divano di pelle di caribù, e dicono che negli ultimi giorni di lockdown è stato visto Matteo Leppore che lo trasportava per strada, pensate, a mano, che fatica che ha fatto, tutto sudato, fino a casa del presidente dell'Acer, Bertuzzi, che era tristissimo per le sue povere recinzioni che sono state smantellate, quindi non sapeva veramente cosa fare. Ha telefonato al primo numero che aveva in rubrica nel cellulare, ed era Matteo Leppore, incredibilmente, dicendo Matteo, e quindi Leppore, che è assessore all'immaginifica fantasia incredibile, ha ben pensato di portarlo come sorta di conforto per il povero Bertuzzi, che in questo momento ci starà piangendo sopra, pensiamo. Beh, mi immagino la scena appunto di Bertuzzi sul divano di Caribù, stile Pietas di Michelangelo, tipo, o nella vasca da bagno come Marat. Beh, salutiamo tutti quanti. Neanche il fascino della divisa, qualcuno non si può permettere nemmeno quello, ma comunque noi vogliamo bene a tutti, sia chiaro, non stiamo di certo, a parte il povero Caribù che è finito spellato per fare il divano. Beh, era già grave. Ok, dopo tutte queste grandi informazioni e scoop, no? Domani finiremo su qualche giornale, secondo me. Queste qui sono grosse queste. E partiamo con un pezzo di Kosh, forse il più anziano del festival, che sì, l'ultimo anno forse è stato quello che ha avuto più problemi col suono, e mi dispiace, e in onore di questo diamo una sua traccia di un EP molto bello, fra l'altro il suo primo EP pubblicato a 50 anni dopo un trentennio di grandi ascolti. Il pezzo si chiama Kosh, Untitled. Thank you. spazio, si sta riempendo di cose molto interessanti, soprattutto a livello artistico, come appunto rispetto al rap di Umberto Smaila sul, questo è il titolo di cui prima abbiamo cantato, c'è una strofa in più. Sì ragazzi, ovviamente tutti quanti, mi raccomando, fateci domande, proponeteci brani e avviate conversazioni su volo.vado.li, scusate non lead, e siamo molto curiosi di sapere la vostra. E no, dicevo che appunto hanno aggiunto una piccola strofa in rima baciata, che gelataio è il suo ventre sanguina, piscio e gelato al pistacchio. Molto molto interessante, veramente, no, ricco di figure retoriche, tra l'altro molto interessante. E poi qualcuno saluta Mara, c'è chi saluta Mahmoud, e poi qualcun altro invece ipotizza su, sempre sull'uso del divano, lo useranno per assistere alla ricostruzione del cantiere come due. Molto bene, ma abbiamo qua un altro ragazzo dell'equipaggio spaziale che ha una domanda per la crew di Volo Elettrica, quindi chiamiamo qua sulla poltrona mistica e il membro dell'equipaggio spaziale, Patella. Ciao a tutti, per oggi sarò incognito 2 e una domanda molto semplice che voglio fare qua agli organizzatori di questo splendido festival che è Bologna Elettrica, e spostiamoci quindi su una visione più artistica da un altro punto di vista, e quindi ho qualche domanda su visual, quindi VJing, performance e anche da non sottovalutare la grafica che sta dietro i flyer e tutto quello che serve per pubblicizzare il festival e le serate. Chi vuole rispondere? Visual, performance e flyer, che sono la cosa che mi interessa di più. Allora, performance, dopo un tentativo il secondo anno di una sezione sulle performance organizzata da Jacopo Mittino, quindi andò bene e si decise il terzo anno di fare addirittura un open call gestita da Bianca, che si propose insieme a Jacopo, e fecero un grandissimo lavoro l'ultimo anno dedicando un'intera sala tutto il pomeriggio a performance, alcune performance legate ai visual, alcune anche inserite diciamo negli spazi aperti, perché l'obiettivo era anche creare una interattività con il pubblico quando meno se l'aspettasse, in tutte le aree. C'era ad esempio una bellissima roulotte dove c'erano un set performativo al suo interno, c'erano installazioni in giro, c'era il noise a suono di psicofarmaci fatto da Pietro. E poi dopo, diciamo che fin dal primo anno, c'era anche lì nell'assemblea, si cercavano di trovare anche DJ Bali con lo skater, rimasto negli annali, e fu una bellissima performance. Diciamo che ci ritrovavamo e niente, dovevamo riuscire a coniugare due cose per fare la scenografia: uno, pochissimi soldi; due, l'idea migliore, più pratica, e che con pochissimi soldi riuscisse ad avere un buon effetto. Poi l'ultimo anno ci sono anche delle ragazze che si sono offerte per mettere a frutto le loro idee. Fu fatto un tentativo, mi ricordo, anche l'ultimo anno con un laser che doveva essere tipo proiettato in 1000 specchi, ma che poi scoprimmo che dopo il secondo specchio questo laser non andava più avanti. Ti tengo anche a spendere due parole per una bellissima installazione che fu fatta per appunto il terzo festival di Bologna Elettrica, che purtroppo non abbiamo potuto installare per motivi di sicurezza, ovvero guarda, ci tengo tantissimo, un bellissimo drago di metallo con il sopra la porta principale, che però aveva due occhi che erano fatti con dei fornellini da campeggio che sputava fuoco. Sicuramente a livello ingegneristico molto molto intraprendente, però poco sicuro. Quindi però forse qualcuno di voi l'ha visto, sopra Sala Grande c'era questo drago molto molto grande, fatto di rete da pollaio e niente, ci tenevo a spendere due parole anche per questo progetto, comunque molto molto ai tante. Torniamo alla parola a Mister Cremino. VJ, beh, i visual abbiamo Taleo. Taleo, ma i visual... dei visual cosa dobbiamo dire? Ma a volte si è preferito, diciamo negli ultimi anni si è preferito più lavorare su giochi di luci. Visual ne abbiamo mai fatti? Sì, per i progetti che li prevedevano, che avevano nel loro live, di solito erano solo per i live. Chi ce l'aveva gli abbiamo dato. Balli l'ha avuto l'anno scorso in 3D da Maurizio, e Stromboli sicuramente, mi pare, in diversi l'hanno avuto. Ci fu, mi ricordo, il primo anno un progetto che fece una sorta di spettacolo di ombre, e lì vennero proiettate le ombre su dei teli da imbianchini, ed era una sorta di teatro di ombre con musica elettronica. E poi ci fu l'installazione delle televisioni, che per ben due anni ha visto la sua presenza in osteria. Veramente grande orgoglio. Il primo anno si mandò un sacco di roba di Chris Cunningham, vabbè, perché e poi si voleva inizialmente fare un cineforum solo di opere Chris Cunningham, Apex Twin, eccetera, però fu accantonato. E il secondo anno ci fu invece l'installazione di televisori. Infatti sui televisori devo ricordare che io mi arrabbiai non poco, che dicevo: ragazzi, ma ci pensate voi a queste televisori, che io non avrò sicuramente tempo di starci dietro, se volete farlo bene. E dicevo: qua abbiamo già troppe cose da fare, ci metto ancora con 50 televisori a fare le cose, sarà un gran casino. Ma invece andò tutto bene, ce la fecero, ragazzi, in sordina, di nascosto, di notte si trovavano e montavano queste televisioni trovate in giro per la strada. Un brano che dice: c'è stata una domanda sul pad, che però possiamo leggerla adesso e rispondergli dopo il brano, così lasciamo anche della suspense, ragazzi, che si sa che nell'intrattenimento radiofonico frutta molto. Sì, qua grandi scienziati della comunicazione. Quindi la domanda è, e ve la leggo con la voce alla Mario Biondi per fare più suspense, ci vorrebbe anche una musica di sottofondo che non abbiamo, purtroppo, però vabbè, non si può aver tutto. Sarà Ole Festival il primo di aprile. Vabbè, lo leggo con la mia voce, perché sennò non sembra seria. Sarà Ole Festival il primo di altri eventi che si svolgeranno via radio o diretti di altro tipo. Forse si allude anche a un'ipotesi di Bologna Elettrica radiofonica. Ne abbiamo parlato tanto e chissà, ne parleremo sicuramente dopo il brano. Il brano è che è Drag Face di Stromboli. Dagliene. Yeah. Allora, siamo di nuovo qua sulle frequenze di radiospore.uziosi.org. Questa è la crew di Bolo Elettrica con altre guest che sono i mix appunto della radio. Vi ricordo che per comunicare con noi potete usare il pad bolo.vado.li. E adesso ci apprestiamo proprio a leggere e a rispondere a una domanda che è stata fatta appunto sul suddetto pad di cui poc'anzi ho parlato, ovvero: sarà Olé Festival il primo di altri eventi che si svolgeranno via radio o dirette di altro tipo? Due punti di domanda. Qualcuno vuole rispondere della crew? Ma allora, chiaramente questo mezzo è usato un po' nell'emergenza di non avere un luogo fisico, ma appena sarà possibile vorremmo fare un grossissimissimo assembramento, diciamo noi di Bologna Elettrica, da qualche parte, magari itinerante, e assembrarci lungo tutta la città su delle mezzi magari a due ruote che funzionano a pedalata non assistita rigorosamente, e sparando musica da tutte le parti e svegliando tutti i residenti che dormono la notte. E quindi vedremo un po' se sarà possibile. Nel frattempo ci divertiamo con la radio e vogliamo ricordarvi che siamo ospitati su Radio Spore, la radio nata all'interno di XM24. Vogliamo ricordarvi che noi siamo la crew di Bologna Elettrica, un festival che si è svolto per 3 anni ad XM24 e nel futuro si svolgerà in posti strani tipo Marte o cose di questo tipo. E vogliamo anche ricordarvi che siamo nel dopo festival di Olé, festival dell'editoria indipendente, che si è svolto per 3 anni dentro XM24 e la cui prossima edizione, allora, la presente, si è svolta sulle onde frequenze di radiospore.ziosi.org. La prossima si svolgerà chissà, in un deserto oppure presso un lago. ma non so, vogliamo sentire un altro pezzo? Abbiamo citato prima DJ Balli della Sonic Belligeranza. Diciamo, finora abbiamo ascoltato sonorità abbastanza wavy, dipi. Vogliamo muoverci un po', scrollarci di dosso la stanchezza. C'è qualcuno qua che ha avuto una giornata sportiva intensa e quindi sentiamo questo maestro conclamato del breakcore e del situazionismo bolognese, DJ Balli, ovvero Riccardo Balli, ovvero Led di Sonic Belligeranza Records. Questo pezzo dall'ultimo album si chiama Galvanized by Frog Fisting, di DJ Balli e Amphibian, a.k.a. Balli Corgan. Prego, maestro. Eccoci tornati sulle frequenze di Radio Spore con Bologna Elettrica. E rispetto alla domanda di prima, la curiosità sulle grafiche, dobbiamo sicuramente citare il nostro illustratore di fiducia. Il nostro illustratore di fiducia Red Rob, che salutiamo, che ha disegnato la bellissima presa elettrica con dita inserite, quasi inserite nella presa, che alla fine ci ha caratterizzato così un po' casualmente, senza voler cercare particolari canoni estetici, però diciamo che rispecchiava sicuramente l'anima un po' punk del progetto. Le grafiche anche hanno sempre, nonostante siano molto molto semplici, sono sempre state frutto di lunghe riflessioni e discussioni, e nello spirito del do it yourself più o meno, diciamo, siamo riusciti sempre a trovare la quadra con questa formula con questa formula molto pulita e essenziale. Abbiamo una domanda. Abbiamo una domanda tra noi, è qui tra noi una domanda, è incredibile. Ha la mascherina, si è pulita le mani col gel igienizzante, quindi può intervenire. Quindi ai microfoni la graffetta di ricerca di Windows XP. Venga, venga graffetta, venga. Ciao ragazzi, sono sempre io, Incognito 2, anche se ogni volta che mi fanno parlare mi danno sempre un epiteto diverso. E la domanda di ora invece è riguardante un, possiamo chiamarlo social, comunque una piattaforma di scambio informazioni e veramente molto interessante e innovativa, e alla quale io appunto, diciamo, ne scoprì l'esistenza qualche mese or sono. E molto interessante. Ma allora, prima di tutto, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Stereodon. E molto interessante, da quello che ho capito, è una piattaforma sulla quale si scambia musica. È una piattaforma creata da i ragazzi XM, giusto? Gelataio? Tutto giusto. E però veramente poco e intuitibile, cioè, nel senso, ci vuole un po' per comprendere e per riuscire a giocare con essa. E quindi questa è la mia domanda: parlateci un po' di Stereodon e diteci come minchia possiamo fare ad utilizzarla. Beh, sicuramente credo che il fatto di essere un po' criptica è stata creata così che Lepore non potesse comprenderla, io credo, tipo, di base. Poi dopo c'è tutto un altro che adesso ci dirà il gelataio. Sì, no, sicuramente la prima, il primo punto era quello, quindi di Lepore, la filosofia è partita tutta da lì. Ma in realtà, rega, non è poi così difficile, perché è che qua in Italia si usa soltanto Facebook, in realtà è uguale a Twitter, e chi sa usare un po' Twitter la sa usare. Poi in realtà ci sono due modalità e una anche più semplice. Vabbè, parliamo di questo social network. Che cos'è? Praticamente, quando finiva l'assemblea di XM o quando eravamo in giro per gli spazi, a volte finivamo nell'hangar a Clubbo, dove c'erano tutti i nerdoni a fare i loro spippoli. alcuni di noi hanno un passato da informatici che ormai rinnegavano e l'hanno così riscoperto guardando quello che creavano, che creavano cose molto più interessanti di quello che ci fanno fare molte aziende ipercapitaliste in cui siamo costretti a lavorare. L'ultimo loro progetto è fatto con il collettivo Bida, che si divide un po', diciamo, quindi fra Club di XM e il collettivo di hacker del Berneri. Hanno creato questo social network autogestito, cioè autogestito proprio perché definiscono loro come farlo. Quindi invece di esserci un Zuckerberg che dice ah no, questo qua non va bene, questo va bene, si trovano con una torta della nonna e del buon vino rosso a discutere come fare il loro social network. Questo social network in realtà non è realmente creato da loro, ma è creato da dei tedeschi che però hanno reso questo software libero, cioè open source, e chiunque lo può installare sul proprio server. La cosa interessante è che io vedo tipo su internet, su queste piattaforme, un po' l'applicazione del metodo, diciamo, della filosofia a volte anarchica, cioè strutturare in tante piccole reti, in tante piccole cittadelle con le loro comunità e collegate fra di loro. Infatti ognuno può creare il proprio server. Per esempio, si è creato mastodon.bida.im, che è il loro server dove ci sono tutti questi utenti che si possono poi collegare da altri utenti di altri server. In realtà è molto più semplice di quello che sembra. Una volta dentro risulterà tutto molto più facile, in modo di questo qui permette quindi di decentrare, cioè se cade un server non è che cade tutta la rete. Se Zuckerberg decide che di una guerra non bisogna più parlarne, qua non sarà possibile, ecco. Quindi, vedendo loro che avevano creato questo server che incredibilmente ha preso piede, penso uno dei primi social network autogestiti fatti dove ci sono i centri sociali che prendono piedi, ci sono di questo server qui, diciamo, creato a Bologna, ci sono più di 10.000 utenti adesso e vi assicuro che si trovano molte più informazioni interessanti che su Facebook. E da lì, diciamo, questo server qui è molto più, diciamo, improntato verso questioni politiche, discussioni politiche e anche qualche cazzata, perché insomma ci deve sempre essere, perché sennò diventa un po' troppo pesante. Quindi loro ci sono proposte di aiutarci, e chiunque vuole può essere aiutato da loro per creare un server legato alla musica, che appunto abbiamo finanziato con l'ultima edizione di Bologna Elettrica, dove abbiamo potuto comprare il nostro server per un anno. E sempre con quei soldi stiamo finanziando il secondo anno, ma adesso abbiamo finito i soldi anche perché non c'è la nuova edizione. Quindi vi potete iscrivere da stereo.social, è tipo Twitter, è open source, e quindi chiunque vostro amico smanettone vi può dire cosa succede sotto, cioè cosa appare nella vostra home. Ecco, lui vi dice: qui non vi cercano di fregare, non stanno rubando i vostri dati, non li stanno vendendo a delle multinazionali. E il nostro obiettivo ovviamente non è essere l'unico server di italiano di musica su Mastodon, tanto che siamo i primi, ma che insomma se ne creano anche tanti altri. Ci si iscrive andando su stereodon.social, che l'ho già detto, no? Lo ridiciamo. C'è un'altra domanda qui? È una domanda e risposta alla risposta. La mia domanda è: sì, ok, è vero, non c'è uno Zuckerberg che marionetta dietro e il portale, però c'è comunque sempre un gruppo di persone. Ecco, qual è la differenza, a parte come posso dire, no, più che presa di potere, qual è la differenza fra Zuckerberg e un gruppo di persone con la torta della nonna e un bicchiere di vino, se non l'orientamento politico? Bella domanda. Cioè che un gruppo di persone aperto, cioè chiunque può frequentare quelle assemblee, possono rendersi, come si può dire, invece che utenti passivi, utenti attivi, e decidere proprio come gestire la propria comunità. Quindi se si pone un dubbio, ma si possono scrivere certe schifezze sul nostro social legato, non so, contenuti fascisti o altre cose, oppure decidiamo di fare i post invece di tot caratteri più lunghi perché vogliamo discussioni più lunghe. E io sono stato una di queste assemblee, devo dire che sono veramente interessanti e che fanno proprio parte della nostra vita, perché non ci rendiamo conto quanto queste tecnologie influenzano la nostra vita. la nostra idea della nostra istanza server è quella di creare una comunità di accenti in cui si parla anche della politica legata alla musica, quindi magari io personalmente di postare il mio mix pazzoide e magari molto sperimentale su Facebook, dove il 99% dei miei utenti non ne frega niente, preferisco ad esempio pubblico molto mie cose più private in questi social, dove fra l'altro viene rispettata, insomma la discussione tecnica sarebbe molto lunga, per esempio viene anche rispettata la privacy, cioè più utenti crei più noi siamo contenti, non ce ne frega niente di chi sei, di mettere il tuo nome e cognome, il tuo cellulare, crea 20.000 utenti e fai quello che ti pare. Qua ci sono domande. Dico, Gelataio, quindi ripetiamo per la terza volta su quale sito dobbiamo andare per iscriversi su questo fantasmagorico e bellissimo social network, che lo scrivo appunto sul pad, così che per tutti i nostri cyber ascoltatori può essere più reperibile per iscriversi magari in questo momento, magari hanno l'esigenza adesso di pubblicare i loro mix super sperimentali e noi gli diamo la possibilità di farlo scrivendo l'indirizzo, ce lo dica di nuovo. Allora, se siete più interessati a informazioni politiche, andate su mastodon.bida.im e poi vi potete creare anche un altro utente. Se siete interessati a più contenuti musicali, artistici, illustrativi, potete andare su stereodon.social senza il www, che è molto più recente, con meno utenti, sta crescendo adesso. E poi comunque da un qualunque server vi potete connettere a qualunque altro server. L'idea è anche che ognuno poi scelga il server in cui si trova più affine e si iscriva a quelli, ecco. Secondo me sarà un po' il più futuro, e sarà il futuro, sarà un po' questo del web, dei social network. Poi vedremo, io ci spero. Niente, andiamo a un'altra traccia, dovete dire qualcosa. Ovviamente no, se non ai posteri l'ardua sentenza, quindi andiamo con la traccia, direi. Cosa abbiamo quindi? Che traccia vogliamo mandare, ragazzi? Che traccia mandiamo? Siamo Eleno Innocence, un duo che si può vedere spesso al modo a scolarsi dei buoni alcolici, e hanno suonato l'ultimo Bologna Electric, che era appena un bel live con i visual pornografici e un live molto cupo, con atmosfere tetre e distese, e dopo poco si hanno aperto anche il robot in una sala, e hanno aperto anche il telefono al vivo al locomotive, qua mi dicono. E insomma l'album è molto godurioso, ci sono dei suoni curatissimi. Io li ho conosciuti i ragazzi e hanno una nerdaggine sul suono non invidiabile. E no, per me è un complimento, non volevo offendere nessuno. Ok, facciamo partire la traccia. Prayer di Eleno Innocence. Dirige il maestro. Andiamo su, che la notte ci guida, le stelle. Oh oh oh oh oh oh, bellissimo brano, really really really oscuro. E niente, io direi, qualcun altro ha delle domande? Se no potremmo iniziare a mandare dei bei mix o DJ sets. Ci sono domande in sala? Una domanda, c'è una domanda? Domanda. Ma quando il sale nella pasta, l'acqua bolle oppure la puoi mettere anche direttamente all'inizio quando non bolle l'acqua? Ragazzi, assolutamente il sale o all'inizio, però il sale non aiuta a bollire. Il sale quando bolla, Filippo, era una domanda trabocchetto. Il sale non aiuta a bollire, ho detto infatti, e puoi non dire io sono il Nostromo e Filippo non so chi sia. E ottimo, quindi se qualcun altro ha delle altre verità da dirci di questo tipo, c'è qualcun altro, nessun altro? E potete rispondere sul pad, dirci in realtà o luoghi comuni per dire non ci sono più... So se non ci sono più le mezze stagioni, se ci sono ancora, parliamone, comunque l'importante è parlarne e non sono tabù. Anche la ricetta per il guassetto al pomodoro pacchino e alici. Beh, questa la scriviamo poi più tardi su cucinodont.bida. E niente, adesso a parte se, questa locura delle due di notte, io andrei con il primo mix. Il primo mix è... primo live, scusatemi. Unico live di tutti i mix e direi che è quello di Fera. È quello di Fera, quindi ragazzi, noi adesso mandiamo il primo live. Ho ospitato, ragazzi, il live dell'isola. Non so se ci volete dire qualcosa del live di Fera all'isola. Bellissimo, secondo me. Sì, avevamo spinto tanto per ospitarlo lì in quella serata che fu Elettricisti volume 1, che ci vide tutti qui, no? Tutti noi in questa sala uniti nell'organizzazione di questa assurda serata. E niente, un abbraccio a Fera che spaccò il culo e distrusse le mura dell'isola. Speriamo di poterlo fare presto di nuovo. Gran bella serata quella dove suonò Fera, molto molto bella, Elettricisti all'isola, una versione ridotta dei Bolognesi Elettrici. E quindi direi mandiamo Fera, se per favore fate poco casino, e mandiamo Fera e così possiamo iniziare a gustarci queste vibration lisergiche. Se qualcuno ha qualcosa da dire ce lo scriva sul pad e noi possiamo rispondere in tempo diretto con questo mic, semplicemente abbassando il fader del volume del live di Fera. E niente, quindi regia e Fera. Yes, e sono io la regia, ragazzi, mi ero dimenticato il passaggio fondamentale, quindi ragazzi, sì, purtroppo hanno tagliato i fondi col Covid. Allora, quindi Fera per questa notte super super deepy di Volo Elettrica, a seguire di Ole Festival a cura di XM24. Dica, li leggiamo tutti, facciamo venire l'acquolina in bocca a questi ragazzini che non vogliono dormire questa notte di situazionismi. Allora, ne abbiamo un sacco, ragazzi, quindi non si dorme un cazzo. Se domani lavorate avete la giustificazione. Parti casalinghi. Allora, abbiamo, ve lo dico subito, e Fera, poi Jacopo Bacci, per chi voleva vederlo spogliato, forse questo è il momento, rimanere collegati. Abbiamo Marco Umpset, abbiamo House of Ragù, che secondo me per ogni Regas di Bolo e Regas di Bolo acquisito che si rispetti è fondamentale. In realtà lui è inglese, ma il ragù è di Bolo, quindi fondamentalmente sono due comunate, quindi asse e Inghilterra, Bologna. Riccardo Vaccari. VH è il nome, no, niente. Della crew del Minsound, bellissimo, grandissimi. S Youth, e da direttamente da Torino, un grande selector, e Valle. Quindi c'è tanta musica, tanta situazione da gustare con gli orecchi. Quindi suoniamo i timpani e gli incudini dei nostri orecchi. Vabbè, sto iniziando a sbordare, a diventare barocco. Ma andiamo Fera, ragazzi. Quindi seguiteci e mandateci le vostre considerazioni e domande su bolo.vado.li. Dagliene.